Con Federico Massimo Ceschin, uno dei curatori della terza edizione del meeting All Roads Lead to Rome, a Roma dal 16 al 25 novembre. Federico, ben trovato. Grazie, ben trovato a te, ben trovati a voi. Illustriamo questo progetto, ce ne parli un po'? Sì, questo progetto nasce nell'anno 2016, quindi al termine, diciamo, da un lato del giubileo e dall'altro dell'anno dei cammini. La sensazione è che quando si celebra un anno speciale, poi gli anni successivi si tenda a in qualche modo rimuovere alcuni temi dalla coscienza collettiva e quindi, come dire, verso il termine, proprio a novembre del 2016, abbiamo immaginato di richiamare una serie di itinerari, di percorsi di mobilità lenta, a piedi, in bicicletta, a cavallo, in barca a vela, in canoa, insomma con tutte le modalità naturali di attraversamento lento dei territori, e richiamarle per fare un po' un punto della situazione, un meeting, l'abbiamo chiamato meeting fin dal primo momento. E quindi ci siamo ritrovati nel novembre del 2016 per raccontarci a che punto eravamo, a che punto era ciascuno di noi, da itinerari europei a itinerari regionali, interregionali e chi si occupa di cammino comunque anche in termini urbani e quindi all'interno delle città storiche o nell'agro e nell'ambiente, nelle aree protette, nei parchi. E piano piano questo evento in 2 o 3 anni è diventato un meeting ancora più robusto che si è arricchito di non solo dal punto di convegni, di incontri, e di confronti e di seminari, ma anche di attività. E quindi già dall'anno scorso il meeting è iniziato ad essere di una durata maggiore, dura 10 giorni, e quest'anno siamo a 10 giorni appunto, ma con 37 eventi in 28 location diverse, dai castelli romani fino a Ostia Antica, e poi con alcune, o le abbiamo chiamate esperienze oltre meeting, che si terranno ad Ariccia e anche a Matera, in vista di Matera 2019, capitale europea della cultura. In questi ultimi anni il cammino, scusa il gioco di parole, ma sta prendendo sempre più piede. Sì, sta prendendo sempre più piede. Credo che appunto sia uno dei risultati dell'Anno Nazionale dei Cammini ed è uno dei risultati, io credo, della evoluzione della domanda internazionale. Le persone che viaggiano hanno richieste sempre più esigenti, hanno richieste sempre più particolari, a fronte del fatto che ci sono sempre più persone che si muovono nel mondo e sempre più arrivi internazionali. E quindi, come dire, così come, ecco, di pari passo potremmo dire, con il superamento di indicatori obsoleti come il PIL, una volta misuravamo la ricchezza in ordine soltanto alla produzione, non ci rendevamo conto che ci sono molti altri fattori che i nostri padri consideravano come ricchezza della nazione o del paese e che noi abbiamo smarrito nel tempo. Di pari passo il turismo, da fenomeno di massa, paradossalmente, con i numeri che continuano ad aumentare, oggi tutte le destinazioni possono dire: l'anno scorso abbiamo registrato più 1, più 2, più 3%, ma ormai tutte registrano aumenti perché è in aumento il numero delle persone Che si sposta. che viaggia, Sì. esatto. Ma è cambiato molto la natura della domanda. Oggi chi si muove cerca l'incontro con i luoghi, possibilmente con luoghi autentici, cerca l'incontro con le persone, insomma, si è tornati a una dimensione del viaggio che è più simile a quella dei nostri nonni addirittura, quando non era tanto importante l'euforia della velocità, no? Noi siamo arrivati fino a progettare il Concorde per poi renderci conto che abbattere spazi, distanze e tempi non è una questione che ci aiuta a vivere meglio. Arrivare da Parigi a New York in 3 ore allora sembrava un sogno che avrebbe fatto fare un passo avanti all'umanità, mentre appunto l'umanità fa piccoli passi avanti nel momento in cui si abbattono i muri, le barriere, in cui le persone, nel momento in cui le persone si incontrano, nel momento in cui le persone si conoscono, si confrontano, si arricchiscono della diversità della persona che gli sta di fronte o dell'identità dei luoghi che attraversano. E questo si può fare solo con lentezza. Allora, questo fenomeno mi sembra che comporti, almeno stando ad ascoltare le intenzioni del meeting, da una parte l'indotto economico mi sembra che sarebbe da valorizzare, d'altra parte anche le occasioni di cultura e socialità ed anche la tutela e la valorizzazione del territorio. Esattamente, e sono proprio perfettamente, Federico, le tre matrici, diciamo, di All Roots. Noi intendiamo proprio l'attività turistica, ma diciamo più in senso generale del viaggio, un'attività che deve appoggiarsi su questi tre paradigmi, diciamo, la tutela del creato, perché è evidente che anche questo, no, come si è evoluta negli ultimi anni, una volta essere ambientalisti significava in qualche modo essere allarmisti o tacciati di essere tali contro lo sviluppo, mentre in realtà l'ambiente è la più grande risorsa che abbiamo, solo che è limitata e quindi la dobbiamo consumare con attenzione. E questo, come dire, è molto semplice, ormai credo che sia anche nella coscienza collettiva. Il secondo aspetto è l'aspetto del patrimonio, che non può essere considerato come, anche questo nei decenni passati, come una musealizzazione continua e una progressiva irrigidimento di situazioni, luoghi, siti, monumenti che poi finiscono per rimanere impolverati dietro teche di vetro, ma deve essere qualcosa che ci appartiene, anzi, che ci fa cambiare il senso di appartenenza che noi abbiamo nel momento in cui scopriamo che non è il patrimonio che ci appartiene, ovvero l'eredità dei padri, ma siamo noi che apparteniamo a lui. E questo induce a nuovi modelli di fruizione che hanno un'ottica completamente capovolta e che quindi fanno il bene dei territori, dei luoghi, attorno ai quali si sviluppa anche quella che noi chiamiamo microeconomia del cammino. Sì. Sono grandi numeri, ma è un'economia in forte crescita comunque ed è perfettamente compatibile con l'identità dei luoghi e con l'ambiente. Il terzo elemento è la centralità della persona. Questo da un lato per noi significa appunto l'incontro, la conoscenza, il confronto, come dicevo prima, dall'altra significa proprio che l'ospite che arriva è al centro della nostra capacità di ospitalità e di accoglienza, di informazione e di servizio. Per cui questo ci aiuta a capire, ad andare incontro a quella domanda che dicevo prima, sempre più evoluta. Chi viene in Italia, tutte le ricerche lo dimostrano, viene in Italia, desidera venire qui perché vuole un'esperienza di italianità. Oggi diciamo che quei numeri in grande crescita, che sono soprattutto dall'estremo oriente, quindi dalla Cina, dal Giappone, ma non solo, anche dal Sud America, dagli Stati Uniti, continuano ad aumentare il numero degli arrivi, non abbiamo una percezione, come dire, estremamente allineata, coerente tra le aspettative di queste persone e quello che effettivamente poi vivono come esperienza quando vengono qui e in 3 giorni mi fanno vedere Venezia, Firenze e Roma. Con una permanenza media nelle 3 città che è diventata di 2 giorni appena, e continua a scendere. Quindi mi preoccupa molto e ci preoccupa molto il fenomeno per cui tutti continuano a cantare vittoria perché aumentano le percentuali dei visitatori, ma nessuno ti dice quanto stiano diminuendo le permanenze medie. E la permanenza media che diminuisce è un fattore tragico per il nostro paese, perché se non riusciamo a vivere della nostra arte, della nostra bellezza, del nostro made in Italy, se non riusciamo a trattenere le persone quel tempo in più perché ci conoscano al di là degli stereotipi e al di là di quello che leggono quando sono a casa loro, evidentemente non riusciremo neanche a proporgli la qualità, diciamo, delle infinite eccellenze che il nostro paese può proporre. In chiusura, Federico, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, volentieri. Non sarà semplicissimo, proverò con uno spelling, quindi www.roots2rom.it, che si scrive Routes 2, Rome, 2 con il numero, rome.it, roots2rom.it. Abbiamo fatto questa scelta un po' particolare dal motto latino, ci siamo accorti che il modo di dire, no, tutte le strade portano a Roma è conosciuto in tutto il mondo, l'abbiamo voluto riportare nella lingua che oggi appunto può essere più facilmente interpretata in tutto il pianeta, e poi però Allora ricordiamo la terza edizione del meeting All Roots Lead to Rome a Roma dal 16 al 25 novembre. Un saluto e un ringraziamento a uno dei curatori, Federico Massimo Ceschin. Un saluto e un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie dell'attenzione e grazie dell'attenzione con cui ci seguiremo reciprocamente da ora in avanti. Un saluto.